Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritornati qui a Zibaldone per una nuova puntata del nostro programma su Radio Contrabanda. Cominciamo con un po' di buon blues. Che bello questo brano, Prove It On Me Blues, un bel blues per cominciare questa puntata del 30 maggio, l'ultima del mese di Zibaldone, con Ellie De Mon, che tra l'altro sarà ospite di questa puntata. Ma non dico molto di più perché do subito il bentornato e dico subito buon pomeriggio anche al nostro caro Banzo, più ergonomico che mai. Banzo, come va? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, livelli di ergonomicità preoccupanti, quindi passo a subito a annunciare il titolo della puntata che, sì, ormai si è capito, avrà a che fare con il blues dell'orso. Se la prima parola è ovvia, la seconda ancora non lo è, ma lo capiremo nel corso dell'intervista con la nostra ospite Ellie De Mon, che hai già annunciato, Steven. Eh sì, e lei ci accompagnerà quest'oggi, scopriremo il suo nuovo album Raise in dialetto vicentino, però ecco, il brano che ci siamo appena ascoltati era di ormai qualche anno fa, una cover molto bella, no Banzo, di un artista che merita di essere ricordata e di cui noi avevamo già parlato qui a Zibaldone in qualche modo recentemente. Esatto, la cover del 2021, il brano invece è di Ma Rainey, conosciuta come la madre del blues, un brano scritto nel 1928, quindi ormai siamo al centenario. Prove It On Me Blues, che è praticamente un'autoaffermazione lesbica nel testo, quindi immagino che non dovesse avere una vita facilissima negli Stati Uniti in quel periodo, Land of the Free, ma fino a un certo punto, diciamo. E perché Ellie De Mon ha coverizzato questa canzone, al di là del fatto, diciamo, evidente che suona blues, c'è una ragione più profonda, cioè che nel 2020, con il suo vero nome, cioè Lisa De Munari, ha pubblicato per Arcana il libro Counting the Blues, Donne Indomite, dedicato alle artiste blues degli anni 20, e un anno dopo ha pubblicato un album, un personaggio estremamente multimediale, Lee Demon, con 9 brani del periodo riscoperti e rivisitati. Avete già avuto un'idea dello stile, questo blues viscerale primordiale, dalle influenze garage punk, veramente tosto, e ne avremo altri esempi nel corso della puntata. Ecco, ma con lei diciamo parleremo di tutto questo e di molto altro, e cominciamo subito, Banzo, andandoci a ascoltare il brano che dà il titolo al suo nuovo album, Raise, in cui appunto canta in vicentino, e poi ne parliamo insieme a lei e scopriamo anche perché appunto il titolo della puntata non ha a che fare solo con il blues ma anche con questo orso. Chi è questo orso? Beh, lo facciamo raccontare tra poco a Lee Demon. Raise, questo è il brano che vi proponiamo. Mare, forse rentro di te batteva un cuore che mi cantava la nana ogni volta che la paura te ciappava di me, i segreti ransina in te, pare fa un canso quale carme tenta sporche vece mai guarie, ma la non le caropi ca fin fondo terrassa bastarda. Oh, oh, oh. Questa appunto era Raise, che è la canzone anche che dà il titolo al nuovo album di Lee Demon, che oggi ci accompagna qui a Zibaldone. Lee, innanzitutto un piacere averti con noi e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi. No, un piacere, il piacere è tutto nostro, e anche per parlare di questo disco che ci è piaciuto molto qui a Zibaldone, no? Raíces, ossia radici, credo che si possa capire in dialetto vicentino. E a che fare questo disco, Ellie, con il luogo in cui tu sei cresciuta, no? Il paese di Sant'Orso, e ha una leggenda che insomma ha a che fare con il tuo paese, no? C'è molta simbologia pagana, un nobile francese che si chiama Orso, insomma raccontacela un po', perché credo insomma da qui sia partita anche un po' l'idea di questo disco, e poi parliamo più in dettaglio di tante altre cose. Ok, allora, io sono cresciuta in questo paese che si chiama Sant'Orso, e la leggenda che lo riguarda mi accompagna sin da quando sono bambina, perché una volta, adesso non si fa più, però questa leggenda veniva raccontata a tutti i bambini del paese. E è un... Il racconto di questa leggenda mi ha sempre interrogato profondamente, perché riguarda un po', essendo un mito, è una cosa che è universale, che un po' tutti riusciamo a sentire. Io mi ci sono molto identificata, e narra appunto di questo cavaliere, Orso, di origine francese, che viene allontanato dalla famiglia perché la sua nascita, un indovino aveva predetto che lui in età adulta avrebbe ucciso il padre, proprio edipica come storia. E quindi questo uomo, questo bambino che diventerà uomo, cresce lontano dall'amore di questa famiglia, poi crescendo diventa un re molto potente, il padre, ammaliato dalla sua fama, va a trovarlo e la profezia si avvera perché Orso lo uccide. Da lì parte il cammino e anche il disco, perché proprio da quel punto di rottura nasce il nuovo Orso, che comincia a camminare, cammina per 12 anni, e in questi 12 anni discute profondamente il suo essere, il suo stare al mondo, e pian pianino capisce chi è, lui chi è. E diciamo che questo suo interrogarsi ha interrogato molto anche me. E quindi fare questo disco per me ha significato anche a livello umano tantissimo, non solo ridiscutere come sono e come sono i posti dove sono nata e cresciuta, ma ha significato anche ridiscutere me stessa insieme ad Orso. E il percorso di Orso, no, cui tu accennavi, è quello appunto di un uomo che è tormentato, no, da questo suo passato, e dalla ricerca in fin dei conti di redenzione, no? In che modo credi che questo mito medievale, questa leggenda così lontana nel tempo, possa parlare insomma anche alle donne, agli uomini del 2025? Allora, è assolutamente contemporaneo, perché come tutti i miti parla tantissimo dell'oggi. Cosa fa Orso? Orso, come aveva fatto Edipo, come aveva fatto Caino, elimina l'altro perché sente che ammettere la presenza di un'altra persona vuol dire ammettere a se stessi di avere una mancanza che però ti fa crescere, perché è una mancanza che ti fa riconoscere l'altro come uno sguardo che ti fa stare al mondo. Eliminando l'altro, Orso, in maniera molto illusoria, crede di poter diventare un soggetto che basta a se stesso. Quindi parla molto del contemporaneo, no? Dell'individualismo in cui noi siamo immersi. Però noi crediamo di bastare a noi stessi, continuando a torturare l'altro, non solo l'altro, ma popoli interi che vengono sterminati, la terra stessa, e non capiamo che in realtà è solo attraverso l'incontro che possiamo crescere e diventare persone complete. Quindi il cammino di Orso è proprio questo, il lasciare andare il proprio individualismo per incontrare, nel suo caso, Madre Terra e profondamente anche gli occhi delle altre persone. E ascolta, e su questo anche direi che, no, capisco che c'è anche la riflessione su quello che è il concetto che dà il titolo all'album, no? Le radici, un termine al giorno d'oggi diciamo che viene declinato in ben altre maniere rispetto a quello che purtroppo tu ci stavi raccontando. Sì. Allora, beh, grazie per questa domanda, perché per me le radici sono una questione assolutamente politica, e io le interpreto, non solo io, insomma, vabbè, però per me le radici sono un qualcosa che va discusso tutti i giorni. Per me le radici sono mobili, e essendo mobili sono una cosa che cambia costantemente e che ci dice che l'identità noi la possiamo conquistare tutti i giorni, e che soprattutto l'identità è un qualcosa che non è fisso, ma è costantemente mobile, proprio perché si muove attraverso gli incontri che si fanno, si incontra attraverso il passare attraverso altre culture. Noi stessi siamo molto diversi nel corso della nostra vita, no? E riconoscere questo flusso e riconoscere anche questa mobilità ci permette di essere persone complete, se vuoi, che non vanno ad arroccarsi su cose stantie e anche pericolose. Come dicevi tu, purtroppo le radici al giorno d'oggi vengono interpretate in tutt'altro modo, cioè io sono questo, tu sei altro e ci scontriamo, soprattutto dove abito io. Sì, ma non solo. Ecco, e quindi per me è anche proprio una questione politica ribadire che invece le radici sono assolutamente mobili e cangianti. Assolutamente, no, sono tra l'altro molto d'accordo con te. E l'opera, il tuo concept album, Raíze, no, si articola in 12 canti, che segue, sì, appunto le vicissitudini, no, di Orso, che tra l'altro, no, si reca, no, nella leggenda alle pendici del Monte Summano, sì, dove poi muore e viene poi addirittura venerato dalla Chiesa Cattolica come Sant'Orso, che è anche una, sì, cosa un po', no, particolare, vedere questa trasmutazione del nome, come viene, no, assunto anche dalla Chiesa Cattolica come un santo. Allora, in realtà la Chiesa Cattolica è stata molto furba, perché questi territori qua sono stati gli ultimi territori a essere cristianizzati, e Orso era un simbolo pagano, l'orso era l'animale totem di queste zone qua, e anche la montagna dove Orso muore in realtà era una montagna, è una montagna votiva dedicata alla Dea Madre, quindi sono tutti simboli pagani questi che la Chiesa ha voluto includere all'interno della propria tradizione cristianizzandoli. Ovviamente la Chiesa è sempre stata furba, sapeva che le genti locali non avrebbero abbracciato il credo cristiano senza avere degli appigli a cui aggrapparsi, e gli appigli erano proprio queste reminiscenze pagane, per cui Orso da animale totemico è diventato un santo, la montagna dedicata alla Dea Sacra è diventata una chiesa dedicata alla Madonna, e ci sono però in realtà, scavando in questi simboli cattolici, in realtà tu vai a scoprire tutta una tradizione legata a un tipo di credenza molto legata alla natura, molto legata al rispetto della vita stessa, cosa che purtroppo dal quale noi ci siamo molto distaccati. E, tra l'altro, uno dei brani che ascolteremo poi tra qualche minuto si intitola El Memoro, no? Che sì, è una rivisitazione, quella che tu proponi, di un brano tradizionale. Mantieni il testo originale, però ovviamente fai tua questa canzone, e tornando anche all'attualità, no, del tuo disco, mm-hmm, del messaggio che vuoi dare con questo concept album, è una denuncia della violenza domestica, tra l'altro in un crescendo drammatico. E qui ti volevo domandare, appunto, uno sul messaggio di questa canzone, anche perché tra l'altro, no, l'originale è più una ballata folk allegra, diciamo, mm-hmm, e dall'altra anche appunto sulla rivisitazione musicale, no? Qual è il tuo approccio verso i materiali della tradizione, no? Sia i canti del blues primigenio, una canzone tradizionale come Il Memoro, o una ninna nanna di mille anni fa come Nana Bobò. Allora, io passo attraverso questi brani naturalmente con il mio approccio, quindi leggendoli secondo la mia esperienza. Nel caso del Memoro, era un brano che io sentivo fatto da mia nonna e dalle sue amiche alle sagre di paese, e quindi, hai detto bene, veniva fatto in maniera molto goliardica e scanzonata. Da piccola ovviamente io non potevo capirlo, poi crescendo e analizzando il testo mi sono resa conto che il testo parla in maniera molto esplicita di violenza domestica, e quindi mi ha sempre colpito come per le donne fosse talmente normale cantare di violenza domestica che ci ridevano sopra, e normalizzando questa violenza. Quindi io ho preso il testo, ho cercato invece di renderlo musicalmente il più drammatico, nel modo più drammatico possibile, proprio per far uscire il senso delle parole. e anche un po' per ribadire che questa violenza non può essere normalizzata, non posso riderci sopra. Tendo a fare questo anche con tutti i brani tradizionali che affronto, ad esempio anche in Nana Bobò ho tirato fuori l'aspetto mortifero della Nina Nanna, perché tutte le Nina Nanne tradizionali servivano alle donne per portare fuori le proprie angosce e per cantare quello che nella vita normale loro non potevano dire, ossia il fatto che avevano paura di crescere una vita da sola, facevano fatica. Ad esempio Nana Bobò dice: Nana Bobò, tete no go, cioè Nana Bobò, io non ho più seno, non ce la faccio più. E l'ho mischiato con un tradizionale della cultura indiana, dell'India del nord, dove le Nina Nanne tradizionali si chiamano Jula. Questo Jula, fatalità, parla anch'esso di questioni legate alla morte, pur essendo una Nina Nanna, dimostrando quindi che certe cose vengono fuori quasi a livello universale. Ed è quello un po' l'approccio che mi piace avere nei brani tradizionali, cercare di tirare fuori magari gli aspetti più primigeni o quelli più legati al testo, o anche quello che ho fatto sulle donne del blues, come dicevi tu, su Prove It On Me Blues ad esempio, ecco, è quello di tirare fuori la visceralità di questi brani, cercando di renderli contemporanei, ecco, che possano parlare anche a una donna e a un uomo, a tutti, del XXI secolo. Assolutamente. Facciamo una piccola pausa musicale, andiamo ad ascoltarci Orso, il titolo è proprio il titolo di questa canzone che è contenuta in Raise, l'album di Ellie DeMond che stiamo presentando quest'oggi qui a Zibaldone. Poi rientriamo insieme a Telly e continuiamo a chiacchierare un po' di tutto quello che riguarda Raise e tante altre cose. E questa era Orso da Raise di Ellie DeMond. Sono morto come uomo e rinato come orso, no? Il protagonista di questo tuo concept album si presenta. Ma una cosa tra l'altro molto interessante di questo tuo progetto è che in realtà non è solo un disco, ossia, diciamo così, è un progetto multimediale, perché la vicenda di Orso l'hai raccontata anche in un omonimo libro, il cui sottotitolo è Una favola gotica con illustrazioni di Luca Peverelli. Sì. Ho cercato di ampliare quello che ho fatto con il disco anche con la parola, per cui una persona che volesse approfondire quello che Orso voleva dire può leggersi un pochino il libro, che ci tengo a dire non è uno studio sul territorio, è un'interpretazione libera di quello che secondo me avrebbe potuto pensare Orso. Ecco, mettiamola così, sono 12 monologhi dove io approfondisco il testo cantato nel disco, e quindi si entra ancora più di più nel viaggio di Orso, accompagnato appunto anche dalle illustrazioni che ha fatto Luca, che è un bravissimo illustratore, proprio per immergersi sempre di più in questa leggenda contemporanea, ecco, mettiamola così. Ascolta, prima lo dicevi tu stessa, no? Ci siamo ascoltati in apertura di questa puntata di Zibaldone un brano blues dove canti in inglese, no? È una versione, una cover in quel caso. Ecco, questo disco invece è in vicentino, no? È in dialetto, sì, nel dialetto delle tue terre, nella lingua delle tue terre. Ecco, com'è stata questa trasformazione a passare, diciamo, dall'inglese, la lingua franca ormai per eccellenza, anche soprattutto nella musica, a invece il dialetto della tua terra? E anche dal punto di vista, voglio dire, della metrica, no? Rispetto ai dischi, alla musica, ai ritmi che tu sempre hai suonato, diciamo, come il blues. Allora, è stato sorprendentemente liberatorio, nel senso che quando ho capito che volevo raccontare di Orso, ho capito subito che non potevo farlo in inglese, perché non mi sarebbe in inglese non mi suonava autentico, mettiamola così. Quindi raccontare la storia di questa terra e soprattutto la mia storia richiedeva una lingua, non solo l'italiano, ma addirittura la mia lingua madre, perché in realtà la mia lingua madre è proprio il dialetto. Ed è stato veramente liberatorio, perché naturalmente, conoscendola a fondo come lingua, ho potuto anche molto giocarci. Ho giocato sulle R, sulle S, sulle T, e ho storpiato anche alcune parole in maniera volontaria, ho usato anche parole volgari che in inglese, diciamo, non mi sono mai sentita libera di usare, nemmeno in italiano forse, ma in dialetto, sentendole sempre da quando sono nata, mi è venuto anche abbastanza spontaneo usarle. E anche a livello metrico in realtà è stata una sorpresa, perché il dialetto vicentino si è rivelato molto funzionale, avendo le parole troncate. Sì. Essendo più corte rispetto all'italiano, è stato quasi più facile che in inglese, sì. Non lo so, anche perché appunto padroneggiandola in maniera assoluta è stato più semplice, sì, ecco. Sì, incredibilmente naturale. Non me l'aspettavo, è venuto. Come? Naturale, sì. Sì. Ascolta, prima ci parlavi, nominavi l'India, no? Facendo, sì, riferimento a questa canzone tradizionale. Ecco, l'India, diciamo, appare, se vuoi, anche nella tua musica dal punto di vista della strumentazione, no? C'è il sitar, che hai studiato anche a livello accademico, ma c'è anche la dilruba, no? Che forse moltissimi, sì, non conosceranno. Ecco, sei riuscita poi anche già in passato, no? Nelle blues session, the Indian tapes, a mischiare, no? Mondi che sembrano così distanti a livello di arrangiamenti, come quello del blues e quello della musica indiana e degli strumenti indiani. Ecco, come sei arrivata, diciamo, a questo tuo interesse per la musica indiana e anche a proporre questo cocktail davvero interessante? L'interesse per la musica indiana nasce sin da quando ero piccolina, banalmente ascoltando i Beatles, mi sono innamorata del sitar, ecco. E poi ho avuto la fortuna da giovane, subito sin da 18 anni, ho avuto la fortuna di incontrare quello che poi è diventato il mio maestro di sitar, che mi ha introdotto alla musica tradizionale indiana, che io ho studiato per tanti anni, andando anche in India, studiando in maniera tradizionale con i maestri. E per me l'incontro con la musica indiana è stato rivelatorio, nel senso che ho potuto approfondire tutti gli aspetti della musica modale, che io sento veramente molto vicini al mio sentire, ecco. E ovviamente, essendomi poi, vabbè, sono laureata in etnomusicologia, quindi si è tutto, sì, riunito, sì, sì. tutto torna e anche nel blues io ho sempre sentito nel blues tantissimo l'approccio modale. E quindi mi è venuto quasi naturale fonderlo con la musica indiana, anche perché essendo due tradizioni comunque di tradizione orale, sia quella blues che quella indiana, ci ho ritrovato molti elementi di connessione e diciamo che ci sono alcune scale modali indiane che mi ricordano tantissimo il blues, e quindi ho cominciato a giocarci, magari anche facendo delle cose molto ingenue, però ecco, è stato un gioco per me molto stimolante, un gioco. Sì, ecco. No, assolutamente, un gioco bellissimo e che offre dei risultati belli e interessanti. Ascolta, tu dicevi Beatles, certo, beh, io ci ho visto anche, e qui mi collego anche alla prossima, che è l'ultima domanda che ti volevo fare, un po' i Velvet Underground, no? Sì, tantissimo. Nel Memoro che ascolteremo tra poco c'è qualcosa di tutto ciò, no? Ma questo ha anche a che fare con un altro progetto che tu hai portato avanti e che si è concretizzato in un libro, no? Pubblicato 2 anni fa, nel 23, per le edizioni, tra l'altro, Underground. Quindi i Velvet tornano in qualche torna modo anche tutto. Esattamente, che si intitola La settimana della banana, no? Che con illustrazioni di Francesca Bono, che tra l'altro è un artista che come musicista abbiamo seguito con interesse qui a Zibaldone. Ecco, com'è nata l'idea di scrivere questo libro per bambini su un tema in fin dei conti così particolare e in fin dei conti come si racconta, no? Il mondo dei Velvet Underground, di Lou Reed, il rock and roll, diciamo così, anche che tocca temi decadenti, di strada, a bambini di 6 o 7 anni. Allora, in realtà il libro è più pensato, mi sono resa conto poi che con i bambini di 6-7 anni non funziona, cioè, è più pensato per i ragazzi delle medie, mettiamola così, perché io insegno le medie e quindi è sempre stato un po' anche il mio cruccio dire vabbè, voi mi raccontate sempre della trap, della rap, di tutti questi testi apparentemente ribelli, ma c'è un signore che è stato veramente ribelle e che mi piacerebbe raccontarvi, che è Lou Reed, e in realtà raccontare quell'album lì mi ha dato modo di affrontare cose che magari che sono ancora un po' considerate tabù, cioè il fatto che con i ragazzi non si possa parlare di suicidio, non si possa parlare di droga, non si possa parlare di depressione. E i Velvet Underground mi hanno dato modo di parlare di queste cose guardandole da un punto, paradossalmente, perché uno pensa ai Velvet Underground, pensa solo al nero, però in realtà c'è tanta luce, secondo me, dentro i Velvet Underground, che è proprio il bello di questo gruppo qua, il fatto che ascolti magari canzoni che suonano assolutamente, che hanno dei testi assolutamente pesanti, però suonano dolcissime. Oppure canzoni che suonano assolutamente paranoiche, ma in realtà hanno un testo che parla di tutt'altro. E quindi i Velvet Underground hanno veramente tantissimi aspetti dentro, che è bello. È una bella sfida raccontarlo ai ragazzi. Sì. Ecco. No, molto, molto interessante. Ascolta, noi ci salutiamo con una canzone, l'abbiamo nominata prima, Il Memoro. Ti lascio, se vuoi, qualche secondo per introdurla, per presentarla tu ai nostri ascoltatori. Il Memoro è un antico canto della Valle Eugra, che è il posto dove sono cresciuta nel nord-est dell'Italia, che parla in maniera molto esplicita della quotidianità delle donne. Non mi piacerebbe dire del passato, ma purtroppo che passato non è. Noi ce ne andiamo ad ascoltare. Elly, grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi. E davvero. Ti aspettiamo presto, magari con un nuovo progetto, un nuovo disco. Grazie. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi. Come on. Eloy Moro, lei è Ellie Demon, che è stata la nostra ospite in questa puntata di Zibaldone. Banzo, un brano bello potente quello che abbiamo appena sentito, e non è stato l'unico. Sì, un brano molto potente, che ha questo crescendo drammatico, potremmo dire hard blues, parametal anche, potremmo dire, che in qualche modo riflette anche la drammaticità del testo. Il Memoro è un canto tradizionale femminile, la Valle Ogra, descrive questa quotidianità domestica, appunto, di violenza con questo bel moro. Credo che si sia capito, anche non essendo veneti, che si ubriaca, spacca i piatti, bastona la moglie, però non è in fondo così male, lo ripete moltissime volte nel testo. E diciamo che è una resa veramente potente, e poi è molto segnata dalla presenza del sitar, sì. Del quale strumento del quale Ellie Demon eccelle, ce l'ha parlato anche nell'intervista. Sì, sì. E noi in questi minuti che ci rimangono qui a Zibaldone abbiamo pensato di spaziare un po' con altri artisti, almeno due che tra l'altro conosciamo, abbiamo conosciuto già qui a Zibaldone, che diciamo cantano in dialetti, lingue del nord-est, e uno è un amico di Zibaldone da veramente i tempi che furono, Banzo. Sì, beh, tempi ormai remoti, perché Tony Bruna per gli aficionados del programma è un nome notissimo, cantautore che canta nel dialetto della sua città, il triestino. Ci andiamo a sentire un suo vecchio brano, Ombre Cinesi, poi vi spieghiamo perché abbiamo scelto questo nel suo repertorio. Sì, tratto da, comunque questo già lo diciamo, Fogo Nero, album del 2021, di cui avevamo parlato proprio con lui, l'avevamo intervistato qui a Zibaldone dopo l'uscita di questo suo album, Ombre Cinesi. Lui è Tony Bruna. Foglie del figo fa ombre cinesi sui muri. Se cani e se simie che il vento rimuovi. Volmo il sigaro e mi tocca lasciarli. E rosica dentro in me svuota. Come con legno fai tagli. Stanotte piovi una piova scura che macia le lastre della finestra. È un drio di quell'altro, una fila di veci che parla la lingua che parla ai miei. Vien avanti portandomi il conto. Il conto della storia adesso ho l'intento. E vuol che te la dico, o che te la distrigo. E vuol che te la dico, o che te la distrigo. Dell'inverno, se oggi arriverei fin qua, se oggi passerei sto segno, non l'avrò più dove scampare, non l'avrò più dove scampare. Dall'inverno, se oggi arriverei fin qua, se oggi passerei sto segno. Che bello questo brano, Ombre cinesi di Tony Bruna, tratto da Fogo Nero 2021, il secondo album di Tony Bruna. Il precedente era passato molto tempo, era il 2012, Formigole, era stato anche ospite Banzo qui proprio a Zibaldone negli studi di Radio Contrabbanda. E la mandiamo in onda anche perché c'è una ragione, no? Sì, esatto, perché a fine 2024, ottobre, è uscito Versioni delle Ombre cinesi, un EP di elettronica sperimentale con 5 remix che fondono appunto questo brano con Servitoli del 2012, spero di averlo pronunciato bene, sai, sbaglio sempre gli accenti. Questi remix sono realizzati dal produttore Federico Bertaccini in arte Fiverr, e comunque noi abbiamo ascoltato la versione originale acustica intensa. Comunque andate a recuperare anche questo mini di Tony Bruna, che ci mostra un'altra sfaccettatura della sua musica, ecco, perché non lo associeremo subito a remix elettronici, ecco. Eh sì. E noi rimaniamo anche per il prossimo brano più o meno in quelle latitudini, no? Insomma, la zona del Friuli, tra il Veneto, la Venezia Giulia, eccetera, con un artista che abbiamo scoperto qualche tempo fa. Nel 2023 era uscito il suo album Rudia, spero di pronunciarlo bene, Massimo Silverio. Allora, con Massimo Silverio effettivamente c'è sempre il problema che i titoli molto probabilmente li pronunceremo male, perché sono in carnico, che è effettivamente una lingua del quale con tutta la bontà del mondo non ho nessuna conoscenza. Però Massimo Silverio ci ha colpito, ci ha stregato molto con Rudia, che è uscito a novembre 2023, ve lo avevamo fatto sentire, è un disco secondo me bellissimo, ha una forte personalità, così per darvi un riferimento, a me a volte ricorda i Sigur Rós, però da sì. premesse completamente diverse, questa cosa va detta. Ci sono un sacco di contrasti, popolare colto, acustico, elettroacustico, l'elettronica, e il brano che andiamo a sentire, Lieva, qui ancora una volta c'è il problema, significa alzarsi, svegliarsi, forse Lieva, non lo so, ed è tratto dalla Rudia. Però comunque c'è una novità discografica che non abbiamo trasmesso per ragioni di tempo, perché è uscito una decina di giorni fa un brano nuovo che si intitola Sorgial, che è il gambo secco reciso della pianta di mais. È un brano di 10 minuti, è uscito come singolo in digitale e diciamo che espande la poetica di Massimo Silverio, con anche grazie alla durata, perché è un brano effettivamente nel quale possono succedere molte cose. Lo trovate su Bandcamp, lo trovate su YouTube, molto probabilmente lo trovate anche su Spotify, ma io non uso Spotify. Comunque dategli un ascolto perché merita. E noi adesso ascoltiamo questo brano invece da Rubia del 2023. Eh sì, rispetto a Sorgial lo presenta Massimo Silverio come un brano che simboleggia ciò che è interrotto, ciò che è marcio. Ma noi, come tu dicevi, andiamo ad ascoltarci un brano del suo precedente album, uscito un anno e mezzo fa più o meno. Eccola qui. Yeah. molto bella la poetica, ma anche la sonorità, no, di questo brano e in realtà di tutto quello che fa Massimo Silverio. Banzo, siamo arrivati alla fine della puntata di Zibaldone e ovviamente c'è l'ultimo trago, è un brano in italiano, italiano originariamente, cantato in altre lingue. Ecco, quest'oggi, per seguire un po' il filo rosso di questa puntata, in realtà è un po' particolare quest'ultimo trago. È un brano friulano, esatto, però volevamo chiudere con una certa continuità, rimaniamo sempre nel nord-est, insomma, a parte Ellie de Mon Veneto, abbiamo avuto molto Friuli Venezia Giulia in questa seconda parte della puntata, e il brano è un brano di Sergio Endrigo, che insomma, Baldone, diciamo, è un po' un nome tutelare, ecco, l'abbiamo trasmesso tantissimo perché è uno dei più grandi del cantautorato italiano, ovviamente. E diciamo che presentando questo brano possiamo anche un po' ripercorrere la storia che lega Endrigo a vari dialetti italiani, perché insomma lui è notoriamente un profugo istriano, ma poi visse per anni a Venezia prima di un definitivo trasferimento a Roma, e gli anni veneziani forse si riflettono in un album del 76, Canzoni Venete, che recupera molti tradizionali, fra i quali anche una Ninna Nanna, Nanna Bobò, che è stata poi anche ripresa dalla nostra ospite di oggi, Ellie de Mon. Però ecco, appunto, dicevamo che è una versione in friulano, e quindi torniamo al 62 con l'incontro di Endrigo con Pierpaolo Pasolini, che effettivamente non viene ricordato quanto meriterebbe per la sua poesia friulana, ovviamente, forse più ricordato in Friuli, appunto, perché nel resto d'Italia questo suo lato è quasi, diciamo, eclissato. E quindi Endrigo conosce queste poesie contenute nella raccolta La meglio gioventù del 1954, e in questo brano, che lui musica, rilegge la storia della famiglia Colussi, cioè quella della madre di Pasolini, fino dall'età napoleonica. Però appunto questo è l'originale, ma noi vi presentiamo una cover che è estratta da una compilation di canzoni di Sergio Endrigo in friulano. Io non so se sono in grado di pronunciarla. Ciantan Endrigo, mi perdoni i friulani se ho sbagliato la pronuncia, cantando Endrigo in lingua friulana, un progetto del paroliere e produttore udinese Alberto Zeppieri. È questo tributo a Endrigo, al quale appunto collabora lui, partecipa Endrigo in tre brani, che era già molto malato e sarebbe morto pochi mesi dopo, e poi c'è anche una dozzina di artisti friulani. E in effetti questa versione del Soldato di Napoleone, non avevo ancora detto il titolo, si trova dai Soldati di Napoleone, è di Frizzi, Comini e Tonasti, un trio che a Zibaldone avevamo già trasmesso per la famosa invasione dei dementi in Italia, con il loro brano più celebre, perché loro sì, sono sempre stati un po' a cavallo fra pop e demenzialità, e purtroppo anche abbiamo una notizia triste relativamente recente, cioè il trio si è sciolto perché a settembre 2024 è scomparso Massimo Frizzi, quindi è finita una avventura artistica lunghissima. E comunque adesso possiamo ascoltare questa Il Soldato di Napoleone per chiudere questa puntata di Zibaldone. Eh sì, e quindi, come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17:56 diceva più o meno tutti i venerdì: no, per il cu a sono posta che se a sinte vener stasi bene, buonasera. Ah, questo però era romagnolo, no? Evidentemente sì. Ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti. Il Soldato di Napoleone, Sergio Endrigo, cantato però da questo fantastico trio. Addio, addio Chiasarsa, i vai via Palmont, Marie pari Iulasi, vai con Napoleon. Addio vecchio país, e con un paio di nuz Napoleon al clama la miei gioventù. Co alleva al sorelli al prim lusor del dí, vi sens cul so chiava al disquindon le partit. Allà val cal correva, di lung sul tilimint, vi sens al si presenta a di Napoleon. Pai magrets di Codroi, pai boscuts di Tiamin, a cos una misdi al soreli Leon, Vicens al si presenta a di Napoleon. Cos son passat siet meis, e son in miets la glas, a conquista li russis pierduts e bandunats. Cos son passat siet dis, e sogni miei il ciel, tali grandi spoloni, sfirizze prisonei. Scaturit il chiaval, parla nei falsi ampava, e vi sens parzora che alza variava. La neif alla bagnava, un'aria di sang, i bui si iuplatava, culasso rossa man. Fermiti, chiaval, fermiti, ti prei, cae ora chi ti dedi una mana di fen. Il chiaval al si ferma e al guarda il suo paron, che ormai al mur di freit col voli quiet e bon. Sta ver, vecio sta fer, che prim vuoi bruschi nati, si ben chi mor di freit e i sedi disperat. Cula so, baionetta, aghi squarta la panza, e al meta tet li drenti la vita cagivanza.